lungo il viaggio è anche noioso, arriviamo affaticati, le valigie son pesanti e i vestiti stropicciati. Meno male, eccoci qua in un albergo illuminato, una stanza c'è per noi, noi che abbiamo tanto viaggiato. Su tutto di questi posti ormai e il freddo so di questa chiave in mano a me. Ti prepari ad abitare questa stanza come fosse una casa, io ti aspetto mentre metti nei cassetti la tua roba e anche la mia, e al di là della finestra c'è una luna strepitosa che ci guarda con tristezza. Una di marmellata per noi due. Che abbiamo casa e figli tutte e due. Ma abbiamo sorriso senza alcun pudore all'idea di un ultimo amore.